Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. PD allo scontro totale. In un audio rubato Del Rio accusa Renzi, nemmeno una telefonata alla minoranza, ma come si fa? Dall'ex premier nuovo appello all'unità. E sul dibattito nel partito pesa l'apertura dell'indagine sul padre del segretario, Tiziano Renzi, indagato per traffico di influenze illecite. Le 5 Stelle torna ad aprirsi lo scontro sullo stadio della Roma. Lombardi dice no, Grillo scrive sul blog, non decidono i parlamentari. Prosegue la protesta dei tassisti in varie città italiane, auto ferme a Roma, garantiti solo i servizi d'urgenza, vertice la settimana prossima. Immigrazione, la procura di Catania si occupa delle ONG che intervengono nel Mediterraneo, nessun fascicolo aperto, ma un'analisi sulle piccole organizzazioni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24, scusate, su quello che succede in Italia e nel mondo, è venerdì anche per me. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it invece se ci volete scrivere. Dunque, ci siamo, il fine settimana che si apre dovrebbe essere quello della scissione del Partito Democratico, sembra sempre più difficile che se ne possa arrivare ad una. Elisabetta Fiorito, buongiorno, è così? Sì, buongiorno. Sì, è così Simone, ma Matteo Renzi appare sempre più isolato, appunto è incapace di evitare la scissione alla vigilia del weekend cruciale per il PD. Anche un fedelissimo come Graziano Del Rio è irritato con il segretario. In un fuori onda polemico il ministro delle infrastrutture attacca, Renzi sbaglia, se ne frega della scissione, non ha fatto neanche una telefonata. Dice Del Rio, si è litigato di brutto perché non puoi trattare questa cosa come un passaggio normale. Devi fare capire che piangi se il PD si divide, non che non te ne frega nulla. Diverse invece le dichiarazioni ufficiali dello stesso Del Rio riguardo al segretario, in cui si tratteggia un Renzi che ha dato segni di disponibilità e che non ci sono alibi per chi pensava che volesse mandare fuori qualcuno. Sulla questione scissione interviene però anche Gianni Cuperlo, che è sempre stato più moderato rispetto a Bersani e a Speranza. Non è un'intervista, dice Cuperlo, che può sciogliere il nodo, riferendosi a quanto detto da Matteo Renzi al Corriere questa mattina. Ci vuole umiltà, nessuno può avere un livello di autostima tale da anteporre se stesso ad un'esperienza politica. Questa mattina, come dicevo, l'intervista di Renzi al Corriere, evitiamo la scissione ma no ai ricatti, non andate, discutiamo, ma dopo che ho detto sì al congresso, loro insistono, ho il dubbio che si voglia comunque rompere. Poi pesa, come hai detto tu, l'indagine, sì, a carico di Tiziano Renzi, il padre del segretario. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento sulle vicenda del Partito Democratico, come si diceva, l'indagine che riguarda Tiziano Renzi. Per fare un punto su questa indagine abbiamo in studio la collega del Sole 24 Ore, Sara Monaci. Sara, ciao, buongiorno. Buongiorno. Di che indagine si tratta dunque? Allora, al momento Tiziano Renzi risulta indagato per traffico illecito di influenze, ovvero un reato nuovo nel codice penale in base al quale qualcuno, quindi l'indagato, in questo caso lui, avrebbe vantato rapporti con una persona particolarmente influente per ottenere qualche vantaggio. E possiamo intuire quale sia, questa persona così influente. Senza troppa fantasia. Peraltro si arriva un po' al paradosso che questo reato, dal punto di vista tecnico, può addirittura prevedere che la persona influente citata potrebbe essere anche parte danneggiata. Quindi è un po' un caso ancora da approfondire. La prossima settimana i PM di Roma lo ascolteranno e lo interrogheranno. Ricordo che l'inchiesta madre parte invece dalla procura di Napoli, che stava indagando sugli appalti di Consip, che è l'ente che si occupa di fare le gare per le forniture della pubblica amministrazione. E qui l'indagine ha preso di mira Alfredo Romeo, un imprenditore indagato per corruzione in questi appalti. Da qui gli investigatori, intercettando e facendo delle loro ricerche, sono arrivati a questi presunti contatti tra Romeo, un faccendiere, e Carlo Russo, questo imprenditore di Scandicci che sarebbe proprio amico intimo della famiglia Renzi, in particolare con Tiziano Renzi, e Russo avrebbe proprio detto di poter essere in grado di contattarlo per favorire, si suppone, dei rapporti con la pubblica amministrazione, quindi il giro è facilmente intuibile. Ovviamente sono molti gli interrogativi di questa indagine, ovvero un capo di imputazione al momento così un po' fumoso andrà approfondito per capire se si andrà avanti o si archivierà. Al momento non ci sono novità se non il côté politico. Ovviamente c'è chi ritiene che potrebbe, appunto, come è stato detto prima, questa situazione creare tensione all'ex premier Renzi proprio nella sua fase di riorganizzazione del partito. Chi invece cerca di stemperare i toni, come il sindaco Nardella di Firenze, che dice che non ci saranno impatti. Vedremo come andrà a finire. Dunque, grazie a Sara Monaci del Sole 24 Ore. Per quanto riguarda i 5 Stelle, invece, sono allo scontro sullo stadio della Roma. Sullo stadio della Roma decidono la giunta e i consiglieri. I parlamentari pensino al loro lavoro, così Beppe Grillo in un post sul blog bacchetta le dichiarazioni della deputata 5 Stelle Roberta Lombardi. Bisogna annullare subito la delibera che stabilisce la pubblica utilità, ha scritto Lombardi su Facebook. Mi auguro che l'amministrazione capitolina faccia la scelta giusta. Già ieri il blog di Grillo aveva zittito il coordinatore del tavolo urbanistica in Campidoglio, Francesco Sanvitto, anche lui favorevole ad un annullamento della delibera, in questo caso rimandando però agli eletti. Quello sullo stadio è un dibattito surreale, commenta Luigi Di Maio. I cittadini, anche quelli romani, non capiscono perché parliamo di queste cose quando le periferie sono messe male. Un nuovo scontro, dunque, all'indomani dell'annuncio di Virginia Raggi che alla notizia della terza polizza intestatale da Salvatore Romeo si è detta pronta a presentare un esposto contro il suo ex fedelissimo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento. Oggi il Papa per la prima volta in visita ad un'università. Il servizio. Oltre 2.000 persone tra studenti e professori hanno accolto questa mattina Papa Francesco all'Università Roma III, primo ateneo italiano visitato dal pontefice dall'inizio del suo pontificato. Tanti temi toccati nell'intervento a braccio, primo fra tutti la disoccupazione giovanile, problema molto sentito fra gli studenti. Papa Francesco mette in guardia dal pericolo di un'economia liquida che, dice, distrugge il lavoro e giudica inaccettabili i tassi europei di senza lavoro. Io vi faccio la domanda. La nostra cara madre Europa, l'identità d'Europa. Come si può pensare che paesi sviluppati abbiano una disoccupazione giovanile così forte? Papa Francesco invita a superare la violenza verbale che domina la società minandola al suo interno e ad accogliere e integrare i migranti che fuggono dalla guerra e dalla fame. La soluzione ideale, secondo Papa Francesco, sarebbe fare la pace e gli investimenti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E restiamo a Roma, occupiamoci però delle proteste dei tassisti. In molte città la situazione è ormai tranquilla, a Roma invece la protesta a quanto pare prosegue. Chiara Piselli, buongiorno. Sono a favore, cioè a favore dello sciopero. No, un attimo, prima di sentire quest'audio, andiamo in diretta con Chiara Piselli. Chiara, ci sei? Eccoci. Eccoci Simone, sì, allora, buongiorno. Vai. Dicevo, sì, che dopo il caos di ieri, già grande di per sé, prosegue anche oggi la protesta dei tassisti. Dunque, secondo giorno di sciopero totale qui nella capitale, secondo giorno di grandi disagi. La categoria protesta, ed è sul piede di guerra, lo ricordiamo, perché è contro le misure sui servizi di noleggio inserite nel maxi emendamento al milleproroghe, definite sanatoria in favore di Uber e abusivi. Misura che, secondo tassisti ed NCC, danneggerebbe l'intera categoria. Le varie sigle sindacali intanto invitano i tassisti a riprendere il servizio. Qui nella capitale l'agitazione spontanea sta andando avanti con diverse assemblee. In alcune zone sono garantiti solo servizi in urgenza, come corse per ospedali, da medici o per persone disabili e anziane. Per Ciampino e Fiumicino, invece, a differenza di ieri, Aeroporti di Roma ha messo a disposizione delle navette e ha invitato poi a usare anche gli altri mezzi alternativi come pullman e treni. Una panoramica sulle altre città. A Milano è ancora sciopero spontaneo a oltranza e assemblee spontanee davanti alla stazione centrale e agli aeroporti. Servizio regolare, invece, come dicevi tu, l'emergenza è rientrata a Torino e a Firenze, salvo qualche astensione dal lavoro ma per scelta individuale. A Napoli resta invece lo stato di agitazione, ma il servizio minimo è garantito. Qui alla stazione Termini noi abbiamo raccolto diverse voci e tanti malumori dalle persone in fila per un taxi che è inesistente appunto oggi. Sentiamole, poi la linea può tornare a te. Sono a favore, cioè a favore dello sciopero. Non è tanto per la categoria quanto perché non è, secondo me, molto regolamentata. Cioè se voglio dire, allora ci fosse un adeguamento per tutti a certe regole, perché no, la libera concorrenza. Però credo che se ci sono delle regole diverse, il gioco non è così equo. A me non mi interessa, non è il lavoro mio, però se loro fanno questa cosa, che sarà un motivo, è bene che se fanno sentire. I taxisti hanno ragione, però dovrebbero fare degli orari almeno, in modo tale che chi aspetta, eccetera. Garantire una fascia minima dunque. Difatti, questo sì, almeno quello, per chi ha bisogno, perché soprattutto da qua che arriviamo. Come arriverà alla sua meta oggi? Penso a piedi, è l'unica soluzione, se no in metro. Io non sono molto informata sull'argomento, quindi non posso dare un'opinione al riguardo. Sono contrario che non venga comunicato, dato che noi veniamo da fuori e vorremmo sapere, ci sarà lo sciopero domani o non ci sarà? Perché presumo questo... che quello di oggi sia uno sciopero selvaggio. Dobbiamo avere un appuntamento di lavoro mio marito e quindi non sappiamo come arrivarci. Ma tre quarti d'ora, ma ho deciso che prenderò, aspetto una collega e prendo la metropolitana. E a proposito di lavoro, occupiamoci di lavoro pubblico nella pubblica amministrazione. Oggi Consiglio dei Ministri è dedicato anche a questo. Novità nelle norme contro i furbetti del cartellino e sul taglio delle partecipate. Sono queste le principali misure contenute nei decreti bis previsti dalla riforma della pubblica amministrazione approvati oggi dal Consiglio dei Ministri. Per gli assenteisti colti in flagrante viene confermato l'obbligo di sospensione in 48 ore e il licenziamento in 30 giorni, mentre vengono ritoccati i termini per la denuncia alla Corte dei Conti e per l'azione di responsabilità. Slitta al 30 giugno invece la scadenza entro la quale le regioni dovranno mettere nero su bianco le partecipate da eliminare, quelle che ad esempio fatturano meno di 1 milione di euro e quelle che hanno più amministratori che dipendenti. Rinviata invece l'approvazione del decreto sul riordino della dirigenza medica delle ASL, il Via Libera dovrebbe arrivare nel prossimo Consiglio dei Ministri assieme alle altre norme previste dalla riforma Madia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora occupiamoci di immigrazione con quella che non è proprio un'inchiesta, al momento solamente un'indagine conoscitiva che riguarda però appunto le ONG. Sentiamo. Secondo le Nazioni Unite, lo scorso anno sono morte nel Mediterraneo più di 5.000 persone. Nel solo gennaio 2017 morti e dispersi sono già più di 200. Come ha detto oggi Papa Francesco all'Università Roma 3, pensiamo al Mare Nostrum che è diventato un cimitero. La soluzione ideale, dice il pontefice, sarebbero pace e investimenti là nei paesi da cui provengono i migranti, soprattutto Africa subsahariana, ma anche Bangladesh, Siria, Tunisia, Libia e Palestina. E certamente non fare affari con gli scafisti. Per questo la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta conoscitiva sugli interventi di soccorso nel canale di Sicilia di nuove e piccole organizzazioni non governative. Negli ultimi anni sono proliferate, ha spiegato il procuratore Carmelo Zuccaro a Repubblica. Vogliamo sapere da dove vengono i tanti soldi che hanno a disposizione e che gioco fanno. Un'inchiesta che nasce da un rapporto di Frontex che riferisce di casi in cui i migranti hanno ricevuto chiare istruzioni su come raggiungere le imbarcazioni di alcune ONG che incrociano talmente vicino alla costa libica da far ipotizzare contatti con gli scafisti. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella storica sentenza di primo grado sullo scandalo Nos, che ha fatto traballare negli ultimi anni la monarchia spagnola, il Tribunale di Palma di Mallorca ha assolto l'infanta Cristina di Borbone, sorella di re Felipe VI, e condannato a 6 anni e 3 mesi suo marito Inaki Urdangarin, accusato di malversazioni. E visto che di corruzione che parliamo, ricordiamo i 25 anni da Mani Pulite con l'analisi del venerdì di Daniele Biacchessi. Il 17 febbraio 1992, 25 anni fa, sembra uno dei tanti arresti per corruzione. Mario Chiesa, socialista, presidente del Pio Albergo Tribuzio di Milano, una casa di riposo per anziani, viene trovato con le mani nella marmellata. E la marmellata è una tangente di 7 milioni di vecchie lire a lui consegnata da Luca Magni, proprietario di un'impresa di pulizie. L'indagine la chiameranno Tangentopoli, nome in codice Operazione Mani Pulite. Il pool dei magistrati di Milano, titolari delle indagini sulla corruzione, arresta e mette sotto accusa centinaia tra politici, imprenditori, funzionari dello Stato, faccendieri, manager di grandi aziende. un'intera classe politica viene azzerata. L'inchiesta Mani Pulite porta a circa 1300 tra condanne e patteggiamenti. Nel 92 l'impatto delle tangenti sul paese implica 10.000 miliardi di lire annui di costi per i cittadini, un indebitamento pubblico tra 150.000 e 250.000 miliardi di lire, tra 15.000 e 25.000 miliardi di interessi annui sul debito. E ora, 25 anni dopo, la corruzione è ancora altissima, è ancora sistemica, ma più raffinata. Non è solo nei grandi appalti, ma anche nel nostro quotidiano, perché qui non c'è una società civile buona e una casta politica cattiva. Per contrastare la corruzione non basta solo una grande indagine, serve anche il nostro impegno civile, la nostra etica nei comportamenti del cittadino comune. Ed è questo ancora il vero problema italiano. Notizia di pochi istanti fa, una tragedia sfiorata ma nessun ferito ai mondiali di sci. Un aereo della pattuglia nazionale svizzera in volo sulla zona del traguardo dei mondiali di San Moritz ha tagliato il cavo di una telecamera che corre lungo tutta la pista. La telecamera è caduta nel mezzo del traguardo, al momento vuoto ma non lontano dal pubblico. Passiamo invece al calcio con il nostro Carlo Genta che è in studio con noi. Carlo, sarei tentatissimo di farti parlare solamente della Roma, sarebbe un po' di parte, ecco. Allora partiamo dalla Fiorentina. Vai, due grandi risultati, quelli che ci riempiono di gioia e di soddisfazione, perché questa Europa League spesso l'abbiamo a torto snobbata. Ieri sera invece due grandi partite, due grandi vittorie in trasferta. La Fiorentina appunto a Mönchengladbach 1-0 sul Borussia, che era reduce a 4 vittorie consecutive, che aveva rialzato la testa dopo il cambio di allenatore, che aveva messo in difficoltà la Juventus, e poi soprattutto un grandissimo gol di Federico Bernardeschi, neo 23enne, che ieri ha segnato una punizione davvero magica. Quanto alla tua Roma, invece, c'è questa notizia meravigliosa dello 0-4 a Villarreal, che è in qualche modo storico, perché il Villarreal spesso ci ha dato delle grosse grane. In Spagna non vinciamo tutti i giorni, c'è la tripletta di Dzeko. C'è un turno, un sedicesimo già passato, e soprattutto si vede la voglia di andare avanti in questa manifestazione. E poi la brutta notizia, che è quella di Florenzi. Lo stavo dicendo, però c'è anche una notizia pessima, che è quella di Alessandro Florenzi, che si è rotto in allenamento di nuovo il legamento che era stato appena operato. Direi che più sfiga di così si muore. Pillola amara dopo le quattro caramelle di ieri sera. Allora grazie Carlo, tutto materiale come sempre per tutti i convocati a partire dalle 14. Noi adesso ci fermiamo e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Iniziamo da una vicenda che ci sta abbastanza a cuore. Vedremo se riusciremo a parlare col sindaco di Bari, che dovremmo avere in linea tra poco, perché che cosa ha deciso di fare? Come sapete, ai politici, e non solo ai politici, lo dico francamente, anche ai giornalisti succede spesso, essendo dei personaggi più o meno pubblici, c'è gente che normalmente ti insulta e lo fa costantemente. De Caro che cosa ha deciso di fare? Ha detto: bene, voi che mi insultate su Facebook, vediamoci faccia a faccia. Non è una roba tipo vediamoci fuori e facciamo a botte, ma incontriamoci e parliamo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte abbiamo parlato dello scontro all'interno del Partito Democratico, dell'indagine che riguarda il padre di Matteo Renzi, dei 5 Stelle che sono invece allo scontro sullo stadio della Roma tra Lombardi e Grillo, della protesta dei tassisti nelle città italiane. Ci siamo occupati anche di immigrazione e dei 25 anni da Mani Pulite. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da Bari. È in linea con noi Antonio De Caro, che è il sindaco di Bari. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, c'è una iniziativa curiosa che ha preso lei, che abbiamo trovato interessante. Lo dico, in parte mi coinvolge, così come coinvolge tutti noi che abbiamo a che fare quotidianamente con il pubblico. Quando dico personaggi pubblici non intendo che insomma siamo chissà che, ma semplicemente abbiamo a che fare con il pubblico. Avendo a che fare con il pubblico, scrivendo, rivolgendoci a tutti, nel suo caso da politico, nel nostro caso da operatore dell'informazione, abbiamo a che fare anche con gente che quotidianamente ci insulta, se la prende con noi, ci attacca per come trattiamo l'informazione, per come non trattiamo alcune cose e così via. Lei ha deciso che queste persone che la insultavano su Facebook più o meno quotidianamente, ha detto: vediamoci, incontriamoci, facciamo due chiacchiere e vediamo che cosa ne emerge. È successo stamattina, ho capito bene, De Caro? Succederà nel pomeriggio. Nel pomeriggio. Io li ho chiamati a raccolta, nel senso che faccio da 2 anni e mezzo il sindaco, la mia pagina social, quella Facebook, è completamente aperta, nel senso che ci si può scrivere sopra, si può rispondere ai miei post, posso ricevere anche post in privato. Credo che non lo faccia nessun sindaco, almeno da un'analisi che ha fatto il mio staff, nessun sindaco ha la pagina così aperta. E ascolto le critiche di tutti da 2 anni e mezzo, alcune volte diciamo le condividiamo, altre volte no, quando le condividiamo cambiamo anche atteggiamento. Molte delle critiche che arrivano sono in realtà delle segnalazioni che ci servono anche a migliorare le condizioni della città, ma da 2 anni e mezzo ci sono alcuni, ecco, odiatori seriali, nel senso che quotidianamente mi riempiono di improperi senza motivo. A queste persone mi sono un po' affezionato e ho chiesto di incontrarle oggi, perché quando poi qualche volta non lei mi dice, scrivono lei, magari... dice, lei dice, se non sbaglio ha detto, quando non trovo l'insulto sulla mia bacheca Facebook ci rimango anche un po' male, dico, no, che fine hanno fatto, che fine hanno fatto bene, o non hanno scritto niente per 2 o 3 giorni, mi preoccupo dello stato di salute, che ce ne sono alcuni che sono praticamente veramente quotidiani. Ecco, io quando ho fatto una strada e lo pubblico perché mi piace far vedere che il sindaco fa, ha la visione, però tiene anche i piedi per terra, cerca di risolvere i piccoli problemi della città, mi aspetto, come accade, che qualcuno mi dica: sindaco, ma perché quella strada e non quell'altra vicino a casa mia che è più rotta? Oppure: sindaco, non ti prendere dei meriti, perché comunque è normale amministrazione. Ma hanno accettato che l'invito. È che qualcuno mi dica: sindaco, morirai sotto l'asfalto. Ti faremo morire sotto, perché? O quando abbiamo illuminato l'albero di Natale, qualcuno ha detto è bello, qualcun altro ha detto troppo provinciale con le luminarie pugliesi, però sentirmi dire: sindaco, quell'albero, diciamo, te lo infileremo, è un po' eccessivo. Beh sì, è un po' eccessivo effettivamente. E senta, e hanno aderito all'appello questi, diciamo, questi, chiamiamoli odiatori, insomma. Qualcuno secondo me è un fake, è un finto profilo e quindi non ci verranno, però magari qualcuno di quelli... Quanta gente verrà da quel che sa, insomma? Perché... No, io di quelli seriali ne ho citati 5 o 6 che sono quelli proprio metodici, poi magari verrà qualcun altro che non mi offende, però vorrà cogliere l'occasione per criticare il sindaco, non li farò tornare indietro certamente, però voglio dare la possibilità a chi... lo fa in maniera seriale di potersi esprimere. Questa idea mi è venuta quando ho incrociato una persona dal barbiere che mi guardava, era seduto vicino a me, e dopo 10 minuti che mi guardava mi ha detto: sindaco, sai chi sono io? E mi ha detto il suo nome, sono quello che ti riempie di parolacce ogni giorno. Abbiamo chiacchierato un po', ecco, dal barbiere. Quando è andato via ha detto: sindaco, io resto dalla mia posizione, diciamo, non la voterò mai, non mi piace come lavora, però ha detto non la riempirò più di parolacce perché mi sembra una brava persona. Quindi il solo fatto di aver, diciamo, stabilito un rapporto civile, oh, che per bello, me è un fatto importante. Che bello, vedi che evidentemente funziona. Allora, chiamiamo, a che ora è? A che ora è, De Caro? Alle 18. Alle 18. Venerdì 17. È un diciamo un giorno particolare. Alle 18. Haters baresi a raccolta alle 18. Grazie Antonio De Caro, sindaco di Bari, e ci spostiamo a Trieste per restare però su questo stesso tema. Rosy Russo, buongiorno. Buongiorno a tutti. È l'organizzatrice di Parole Ostili. Qua mi devo autodenunciare una sorta di conflitto di interesse, anche se non prendo un quattrino. Sono tra i sottoscrittori, sono tra i sottoscrittori, i sostenitori di una manifestazione che si svolge a Trieste e che è una manifestazione dedicata esattamente all'odio in rete. Che cosa farete in questi 2 giorni, Rosy? Allora, vuole essere un momento di sensibilizzazione sull'utilizzo delle parole in rete. È nato così Parole Ostili. È nato da chiacchiere tra amici quest'estate, dalla difficoltà di tutti, un po' come diceva adesso, no, De Caro, il fatto che sì, le parole sono importanti, tante volte però sono pesanti, fanno male. E quindi abbiamo detto: ok, ma cos'è che si può fare? Noi sogniamo una rete dove ci sia, anzi, proveremo, no, a lanciare questo virus positivo dello scelgo le parole con cura, perché le parole sono importanti. Ed è da questo che siamo partiti. Così oggi avremo un grande incontro in cui presenteremo il manifesto della comunicazione non ostile. Scritto a 100 mani, sapete? Sì. È stato scritto con l'aiuto di tanti amici, comunicatori, giornalisti, politici, persone che hanno a cuore il futuro della rete e hanno ancora le parole che si usano in rete. Qualche principio che già è emerso da queste discussioni, Rosy, virtuali, allora, per il momento? Sì, forse il primo, tanto condiviso, è quello che parte dalla realtà che virtuale è reale. Quindi il primo principio dice: virtuale e reale, dico, scrivo in rete solo le cose che ho coraggio di dire di persona. E un po' ci rifacciamo proprio al discorso che ha fatto appunto poco fa il sindaco, no? Che tante volte si scrivono in rete delle cose che poi forse non avremo il coraggio di dire quotidianamente di persona, no? Un altro principio che secondo me è molto molto bello è quello che dice: anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è tacere, taccio. Questa è una cosa che forse facciamo fatica a fare in rete, secondo me. Bisognerebbe avere un po' di consapevolezza, un po' di, ecco, prendersi quella responsabilità di capire che in certi momenti è meglio tacere che continuare. Allora, grazie a Rosy Russo, buon lavoro per questi 2 giorni a Trieste e nel nostro giro per l'Italia. Non ci spostiamo di molto e andiamo a Pordenone. A Pordenone, dove, leggo dal titolo del quotidiano La Stampa, istituto blindato con i tornelli, ma studenti e prof non gradiscono. Una scuola ha deciso di spendere 125.000 euro per la sicurezza e c'è anche la protesta dei sindacati. Dicono che quei soldi potevano essere usati meglio per i laboratori. Bene. Di questo volevamo parlare, andando a Pordenone e capendo la dirigente scolastica come mai avesse deciso di mettere questi tornelli. Mi dicono che ce l'abbiamo? Oh, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo dunque la professoressa Antonietta Zancan, che è preside dell'ITIS Kennedy di Pordenone. Buongiorno professoressa, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, mi sembra ci sia un po' di protesta. Avete messo dei tornelli per entrare nella scuola, come mai? Allora, non li abbiamo ancora messi, li metteremo. Il progetto è nato nell'alveo di un'esperienza di alternanza scuola-lavoro condotta con la collaborazione di un'azienda che è leader in questo settore e praticamente è seguito da un gruppo di studenti dell'indirizzo elettrotecnica che hanno studiato l'installazione dei tornelli per accedere all'istituto. Questo al fine di migliorare la sicurezza appunto nell'ambito scolastico, a tutela di tutti gli utenti, che sono molti, perché abbiamo un istituto con numeri elevatissimi di frequentanti, oltre 1600, 200 insegnanti, 50 operatori ATA. E, 125.000 euro, Zancan? Allora, questa era la stima, il prezzo di mercato, dell'intervento che comprendeva tutti e tre gli ingressi della scuola. Attualmente ci siamo impegnati per, diciamo, l'ingresso principale, che è quello appunto a cui accedono gli studenti e gli utenti esterni, e vi è un impegno di 50.000 euro della provincia per le opere edilizie e di circa 15.500 euro per i tornelli. Una bella cifra, diciamo, cioè molti dicono, lo fanno i sindacati, dicono: ma insomma, questi soldi si potrebbero spendere per altro, per non lo so, per esempio corsi a margine o altre cose. Insomma, il concetto è sempre quello, no? La scuola ha altre esigenze, non ci sono episodi particolari di criminalità o di violenza, non ne vale la pena. Allora, Pordenone negli ultimi anni, come tutte le altre città, diciamo, ha visto un progressivo aumento dei reati contro il patrimonio. Noi in questo istituto abbiamo investito e abbiamo anche predicato di investire nelle tecnologie relative appunto alle attività di laboratorio dei nostri studenti, con attrezzature anche impegnative sotto profilo dei costi. Questa installazione è, diciamo, rientra negli aspetti organizzativi a tutela degli utenti, ma anche a tutela del nostro patrimonio di attrezzature, che altrimenti potrebbero essere messi a rischio. Comunque è, diciamo, un qualcosa che aggiunge in più nella sicurezza, alza il livello di sicurezza nell'istituto. Lei sa che in questo periodo la questione dei tornelli, dopo le vicende di Bologna, è particolarmente sensibile, no? Sì, ahimè, non sapevamo che Bologna c'era questa intenzione. Forse non era il momento giusto, forse non era il momento giusto. Ma guardi, noi abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto l'anno scorso insieme all'azienda partner, quindi siamo al di sopra di ogni sospetto in questo senso. E per cui stiamo avviando la realizzazione, perché tutto lo studio di fattibilità e anche di vantaggi che questo progetto porta è stato realizzato in maniera come sempre, ad alta cifra di innovazione che è nelle corde del Kennedy. Nelle caratteristiche del vostro istituto. Grazie, sì. Antonietta Zancan, presi dell'ITIS Kennedy Pordenone, per essere stata con noi. Noi adesso ci fermiamo, come sempre andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Tra le altre cose parleremo di una pena inflitta, una pena particolare, inflitta a dei genitori che avevano fatto a botte mentre guardavano la partita dei loro figli che giocavano nei pulcini. È una pena particolare. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il PD allo scontro totale in un audio rubato del Rio accusa Renzi, nemmeno una telefonata alla minoranza, ma come si fa? Dall'ex premier nuovo appello all'unità, al momento rifiutato da Cuperlo. E sul dibattito nel partito pesa l'apertura dell'indagine sul padre del segretario, Tiziano Renzi, indagato per traffico di influenze illecite. Le 5 Stelle torna ad aprirsi lo scontro invece sullo stadio della Roma. Lombardi dice no, Grillo scrive sul blog, non decidono i parlamentari. Prosegue la protesta dei tassisti in varie città italiane, autoferme a Roma, garantiti solo i servizi di urgenza. Vertice la settimana prossima, la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Effetto giorno. Ci spostiamo adesso a Genova, nel quartiere di Cornigliano. Vi abbiamo parlato spesso in queste settimane dei cittadini che si auto-organizzano, a volte con WhatsApp, a volte con altri strumenti, per tenere sotto controllo la sicurezza dei loro quartieri. Succede a Cornigliano che addirittura venga recapitato un dossier al commissariato che contiene tutti i dettagli degli spostamenti, da quel che ho capito foto comprese, ma chiederemo conferma, di uno spacciatore, e i cittadini riescono a farlo arrestare. Qua il secolo XIX parla di dossier dei genitori. In realtà Andrea Linsitto, commissario capo di Cornigliano a Genova, non sappiamo se siano stati i genitori dei ragazzi a consegnarvi questo dossier, però il dossier c'è, no? Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Noi abbiamo ricevuto un esposto appunto da parte di alcuni cittadini che, seppur diciamo in forma anonima, tuttavia ha presentato insomma dei dettagli, quindi un esposto molto circostanziato che ci diceva un po' tutto quello che era il via vai relativo a questa attività di spaccio. Quindi parliamo dei soggetti interessati, quindi parliamo degli spacciatori, degli acquirenti, degli orari in cui questa attività si svolgeva, e poi anche della particolarità di questi, appunto, ripeto, soggetti che si accompagnavano tra l'altro a un cane e a un pitbull, e questo ci ha permesso quindi di identificare. E i cittadini, mi scusi, l'hanno letteralmente pedinato, mi sembra di aver capito, quasi. Ma allora, in realtà sì, diciamo non c'è stato un vero e proprio pedinamento, però diciamo da un'attività di osservazione ci hanno, appunto, ripeto, permesso di identificare in maniera molto precisa chi erano i soggetti coinvolti, che tipo di movimenti facessero, anche quella che era un po' l'attività di spaccio, e quindi come si avvicinavano gli acquirenti, quali erano diciamo i segnali che lanciavano diciamo dal palazzo interessato i pusher, e di conseguenza abbiamo poi, grazie alla squadra investigativa del commissariato, ci siamo appostati e, ripeto, grazie a queste indicazioni molto precise siamo riusciti poi ad effettuare questo arresto. Quante cose di questo genere capitano sui vostri tavoli, sulle vostre scrivanie? In realtà devo dire è una cosa diciamo abbastanza frequente, ed è fa parte un po' di quella che è la fattiva collaborazione che deve esservi un po' tra i cittadini e il commissariato di zona competente, o comunque in generale la questura, per far sì che poi si diano delle risposte diciamo molto efficaci sul territorio, e che quindi si vedano poi quelli che sono i risultati, ecco, della segnalazione che ci viene recapitata in commissariato. La ringrazio, grazie ad Andrea, grazie Linsitto per essere stato con noi, commissario capo del commissariato di Cornigliano Genova. Come sapete, il venerdì abbiamo inaugurato questa pratica della notizia pucciosa, cioè una notizia dolce, carina o che comunque ci è piaciuta, che ha a che fare con la cronaca, ma che ci sembra una buona notizia. Nella fattispecie l'abbiamo presa dalla prima pagina del Corriere, dell'edizione milanese del Corriere della Sera, e dunque è proprio in Lombardia che ci spostiamo. Domenica 18 settembre 2016, campo di Dubino, provincia di Sondrio, squadre di pulcini di calcio, classe 2006, quindi ragazzini di 11 anni, l'Olginatese e lo Xenia di Mariano Comense si affrontano, all'ultimo minuto un gol e sugli spalti scoppia la risa. Sono i tipici genitori che vanno alle partite di calcio e poi si ammazzano di botte. Che cosa succede? Succede che si decide di far intervenire una figura particolare, uno psicologo, cioè i genitori vanno per così dire a lezione di fair play. Elisa Maggi è una psicologa dello sport e che si occupa esattamente di questa vicenda. Maggi, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno, grazie. Allora, che cosa insegnate a questi genitori? Quando ve li trovate là, guardi, partiamo da zero. Mi dica cosa vi dicono i genitori, perché poi il ruolo dello psicologo è prima di tutto di ascolto, no? Certo, assolutamente. Intanto quello che abbiamo fatto ieri è stato un incontro formativo e informativo, proprio per sensibilizzare i genitori su delle tematiche particolari. E hanno dato anche proprio il rimando che magari sono concetti che si sanno ma che nella vita frenetica di tutti i giorni un po' si perdono, che quindi è bene ogni tanto fermarsi a rimarcare. E che cosa vi dicono? È chiaro, cioè non le chiedo di violare il segreto professionale, ma genericamente insomma mi dia un'idea di quello che raccontano questi genitori. Cioè, quando è che è partito l'embolo? Allora, quello di preciso non lo sappiamo, nel senso che comunque non abbiamo fatto un incontro mirato a quello, ma mirato sostanzialmente a proprio raccontare e farsi capire se sanno e se hanno ben presente quali sono le motivazioni con cui i loro figli giocano a calcio e si trovano sul campo. Magari possono essere le motivazioni principali che invece muovono i genitori, quelle di percepire o delle ingiustizie a carico dei propri figli o della squadra, o di stare più accorti sul risultato al posto che sulla performance, quindi di guardare delle cose diverse. Ma sono più o meno gli stessi meccanismi che scattano negli ultras quando si picchiano allo stadio e giocano le squadre di Serie A? No, mi viene da dire che sono proprio diversi, nel senso che lì è anche vedere un proprio figlio che gioca e che è sul campo, però hanno assolutamente delle motivazioni diverse. Per questo noi veramente abbiamo pressato, tra virgolette, sul punto che i bambini, soprattutto di questa età, detto bene prima, del 2006, quindi 10-11 anni, giocano soprattutto per divertirsi, e quindi quello che c'è sugli spalti deve essere un rispetto di questo diritto, di quello che loro vogliono fare. Oh, ricordiamo che questa iniziativa è stata presa proprio dalla FIGC, perché le opzioni erano due: o far giocare questi ragazzini a porte chiuse fino alla fine della stagione, che sarebbe stata una cosa veramente tristissima, oppure dall'altra parte appunto operare una scelta di questo genere, cioè una sorta di scelta educativa. Come hanno reagito a questo primo incontro i genitori? Allora, hanno reagito comunque tenendo in considerazione il messaggio che abbiamo voluto passare, quindi tutto quello di cui ho parlato poco fa, e spero abbiano interiorizzato anche quello che è un messaggio più generale che vogliamo far passare, che è quello di voler coinvolgere sempre di più i genitori, perché sono figure di riferimento gli adulti più significativi che i bambini hanno a fianco, e quindi hanno sono intervenuti, c'erano anche bambini nell'incontro di ieri sera. Sì. Questo le volevo chiedere, perché poi la scena deve essere stata terribile, perché c'erano questi che si picchiavano sugli spalti e i ragazzini in campo che si sono messi a piangere vedendo questa scena, quindi immagino che fosse necessaria anche la presenza, sì, degli stessi bambini, no? Sì, certo, è comunque stata molto gradita, sia perché hanno partecipato in prima persona e poi anche perché, come abbiamo cercato di far capire ai genitori, i bambini osservano e percepiscono sempre anche le emozioni, e soprattutto le emozioni che vengono dagli adulti che gli stanno intorno, per cui la reazione dei bambini è stata più che giustificata nel vedere un'azione di questo tipo. Allora la ringrazio, grazie Elisa Maggi, psicologa dello sport, quindi psicologi per i genitori che vanno a vedere i figli che giocano a calcio. Niente male come iniziativa. Con questo chiudiamo e chiudiamo anche la settimana, il traffico, Platero, poi ci risentiamo alla fine per i saluti.